Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Nei giorni scorsi, un'inchiesta partita dalla Procura di Milano ha portato al sequestro dell'Hollywood, nota discoteca milanese frequentata dai VIP. Al centro dell'indagine un giro di droga e di escort, ma c'erano anche storie di ordinaria violenza, nelle quali erano coinvolti buttafuori, vigili e poliziotti corrotti. Ha un nome d'arte, Gundam. Fa il buttafuori, è uno che si fa notare. Hai staccato la testa a un ragazzo giù, gli urla al telefono Vito Cardinale, uno dei padroni dell'Hollywood. Gundam risponde che c'è un perché. Quell'altro replica che non vuol saperlo. Sono altre le notizie da conoscere. Il giovane picchiato, per esempio, si scopre è figlio di uno importante, molto importante. Forse girava ubriaco in pista il ragazzo, forse dava fastidio agli altri. Ci ha pensato Gundam. L'ha preso, espulso, archiviato. All'Hollywood funzionava alla perfezione la squadra dei bodyguard, in nome di un sistema di security, ha scritto il magistrato, non previsto da alcuna norma e anzi esplicitamente vietato. Illegale, da sanzionare dunque. Peccato che del sistema security facesse parte, piena parte, un vigile, nello specifico un commissario aggiunto, che come secondo lavoro o chissà occupazione principale, badava che nessuno desse fastidio dentro e fuori. Si chiama Saverio Miracapillo, è del 1954. La tanto sbandierata operazione di pulizia del sindaco Moratti e dei suoi, con lui, non ha funzionato. Come conferma il suo comandante, Miracapillo è ancora al lavoro. Lo è stato per tutto questo tempo. E in tutto questo tempo si è dato da fare per aiutini vari. Una sera lo chiamano, gli dicono che Pasquale Laricchia, un tizio del Grande Fratello, ha avuto un incidente in Viale da Cermenate. È bloccato, i vigili non escono per rilievi. Laricchia, insomma, ha una certa fretta. Ma ho sollecito io, dai. Provi a fare una chiamata? Sollecito io, sollecito. Do il sollecito, dai. I tempi di intervento, però, saranno lunghi. Capita, c'è stato un incidente con un morto a Milano. Ma non conviene disperarsi. Laricchia sarà aiutato. Miracapillo annuncia che lo chiamerà personalmente. Piccolo particolare. A telefonare al commissario aggiunto era stato Antimio Cataneo, ispettore superiore della polizia, lui pure, per servizi di difesa dell'Hollywood, visto più volte dai colleghi delle pattuglie dalle parti della discoteca. Ricorso alla violenza in maniera indiscriminata, con gestori e soci che non si fanno alcuno scrupolo nell'ostacolare le ricerche delle forze dell'ordine. Cocaina, sesso e botte in Corso Como. Pestaggi, vendette, agguati, stranieri picchiati, forse nell'ambito del giro di droga. Fuori dai locali le presenze di immigrati sono fisse. 10, 20. Girano a piedi, in bici. Smerciano pasticche, grammi. Tutti stranieri gli spacciatori, chiamati però con nomi italiani. Chiamati di giorno, di notte, implorati. L'Hollywood, il The Club e altri 2, 3, 5 sono in corso accertamenti su nuovi locali. Nelle carte dell'inchiesta compaiono altri nomi, altre cose. Uscite di sicurezza, misure antincendio, lavori di ampliamento, permessi accelerati, divieti aggirati, passate per quella commissione comunale di vigilanza sui locali che vigilava ben poco. Piuttosto chiudeva un occhio. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dall'articolo di Andrea Galli "A quello gli hai rotto la testa. Pestaggi per proteggere i VIP" dal Corriere della Sera del 29 luglio. L'ennesimo caso di violenza negli asili, registrato nei giorni scorsi a Genova, ha coinvolto 3 maestre, accusate di maltrattamenti e punizioni nei confronti dei bambini. Di fronte all'evidenza degli episodi, ripresi da telecamere nascoste, l'avvocato difensore ha sostenuto che quelli delle maestre erano solo metodi un po' decisi. Ma come scrive Fulvio Scaparro sul Corriere della Sera, quelli che, rievocando i tempi delle bacchettate sulle dita, sostengono che a volte quelle sberle siano educative, forse non ricordano più cosa provavano da bambini quando venivano picchiati. Di tanto in tanto, quando un bimbo fa i capricci o piagnucola o strilla, da sotto l'ombrellone e nello scompartimento ferroviario, capita ancora di udire la voce di qualche adulto che invoca la sacra sberla, perché, questa è la stringata motivazione, quando ci vuole, ci vuole. Capita anche che non pochi astanti convengano sull'efficacia pedagogica dello schiaffo, ma non in faccia, si affrettano ad aggiungere i più comprensivi. Subito dopo, abbandonandosi sull'onda dei ricordi, c'è chi rievoca con malcelata nostalgia i bei tempi in cui non si andava tanto per il sottile e a casa o a scuola. Le punizioni fisiche erano all'ordine del giorno e i più anziani ricordano di essere stati bacchettati con il righello sulle mani o di aver passato molto tempo inginocchiati sui ceci. Conclusione. Qualche sberla non ha mai fatto male a nessuno e noi ne siamo la prova, visto che siamo cresciuti onesti e ben educati. Perché è questo il bello, si fa per dire, del trascorrere degli anni. Dimentichiamo cosa abbiamo provato da piccoli quando un genitore, un'educatrice o un maestro non riuscivano a farsi obbedire se non picchiando. Non tutti, per fortuna, e quelli che sapevano farsi rispettare senza menar le mani sono rimasti scolpiti nella nostra mente e nei loro confronti nutriamo ancora gratitudine e ammirazione. Le botte terapeutiche sono una brutta favola che continuiamo a raccontarci per giustificare il fatto che troppo spesso carichiamo sui più piccoli le nostre tensioni, le nostre frustrazioni, i nostri malesseri. Si può intervenire energicamente, prendendoli in braccio, per allontanare i bimbi da un pericolo, per dividerli quando si picchiano tra loro e in poche altre circostanze, ma mai dovremmo manifestare il nostro fallimento educativo usando la scorciatoia delle botte. La violenza fisica e le urla impauriscono, umiliano e, piaccia o non piaccia, costituiscono un esempio particolarmente contagioso perché potrebbero essere nel tempo adottate dalle vittime come un modo particolarmente efficace per farsi obbedire. Se siamo stressati, facciamoci aiutare, ma non sfoghiamoci sui bambini. Nell'educazione non c'è posto per la violenza, che provoca paura e umiliazione. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Fulvio Scaparro Lo sberlone terapeutico, brutta e falsa favola per adulti, dal Corriere della Sera del 29 luglio. Quando nel 1915 iniziano le deportazioni e le stragi di armeni da parte dei turchi, la piccola Veron ha soltanto 8 anni. Alla fine del genocidio sarà l'unica sopravvissuta della sua famiglia. Nel libro Lontano da casa, scritto nel 1979 e ora riproposto da Guerini e Associati, l'esodo armeno viene rievocato dal figlio di Veron, lo scrittore David Kerdian, che nei panni della madre rivive quei tragici momenti. Non avevo mai pensato al tempo o all'eventualità di un cambiamento. Però pian piano qualcosa cominciò a mutare. In apparenza le nostre vite erano tali e quali a prima, ma le giornate, che fino ad allora erano sempre parse inondate di sole, cominciarono a essere offuscate da una nube scura. Per la prima volta avvertii la gravità dei nostri problemi con i turchi. Avevo sempre saputo che non ci erano amici, anche se con alcuni andavamo d'accordo, ma ora sembrava davvero che fossero diventati i nostri nemici. Noi eravamo cristiani e loro musulmani, ma non era solo questo a separarci. Eravamo diversi anche per lingua, razza e usanze. Vivevamo sulla stessa terra, ma quella terra, mi dissero, aveva un padrone, e l'attuale padrone di quella che noi avevamo sempre chiamato casa era la Turchia. In passato la nonna aveva accennato alla possibilità di scontri fra armeni e turchi, ma ora sia lei che tutto il nostro quartiere ne parlavano apertamente. Mi fu spiegato che pochi anni prima, nel 1895, i turchi avevano massacrato centinaia di migliaia di armeni e che la cosa si era ripetuta ad Adana nel 1909, quando io avevo appena 2 anni. Adesso correva voce che ci sarebbero state altre stragi. Non sapevo che cosa significasse di preciso, ma vedevo che gli anziani erano preoccupati. La loro inquietudine mi contagiò, tanto che presi a parlare delle mie paure con gli altri bambini. Nessuno di loro riusciva a comprendere che cosa stesse succedendo, ma capivo che pure loro provavano un certo disagio. Mi resi conto, perciò, che i nostri timori non erano infantili o immaginari, ma reali e profondi. Spesso sentivo bisbigliare sia a casa nostra che dalla nonna, soprattutto di sera, quando i miei genitori ci credevano addormentati. Più che altro, però, furono il loro aspetto, il loro tono di voce, i loro gesti a farmi capire che c'era qualcosa che non andava. Mi giunsero all'orecchio parole come deportazioni, massacri, annientamento. Non mi piaceva il loro suono, ma soprattutto l'espressione di chi le pronunciava. Fu in quel periodo che l'esercito turco richiamò alle armi i miei zii Abraham e Agop. Quando chiesi spiegazioni alla nonna, lei accennò alla guerra mondiale. Accadde di domenica. Stavamo per essere deportati e ormai conoscevo il significato della parola deportazione. Ci furono concessi 3 giorni per raccogliere i nostri averi e partire. Nessuno sapeva dove ci avrebbero mandato. La gente regalava le proprie cose, parlava con voce malferma, scoppiava in singhiozzi. Non rammento l'omelia che ascoltai in chiesa quella domenica. Ricordo soltanto il dolore non dissimulabile nella voce del sacerdote. Sulle prime volevo porre delle domande, ma l'orrore dei fatti me lo impedì. Mi costrinsi a credere che sarebbe andato tutto bene. Pregavo dentro di me e cercavo di usare la ragione. Come era possibile che i turchi ci facessero una cosa simile? Perché mai ci cacciavano dalle nostre case? Non trovando risposta, supplicavo Dio Padre di liberare tutti noi da quel male e me dalla mia confusione. Dovevo badare i piccoli mentre la mamma faceva i bagagli e si occupava degli ultimi preparativi. Una cortina di angoscia, eccitazione e paura aveva inghiottito il mio mondo. La nonna veniva da noi tutti i giorni. Poiché aveva dato 2 figli all'esercito turco, non sarebbe stata deportata, ma il nonno sì. Grazie al fatto che gli zii Abraham e Agop combattevano per lo Stato, nemmeno le zie sarebbero partite. E lo stesso valeva per Rpsime. Non volevo lasciare zia Lusaper ed ero gelosa del fatto che a mia cugina fosse risparmiata la nostra marcia, come l'avevo sentita chiamare. Venerdì, papà andò dalla nonna a prendere il carro con i cavalli e cominciammo a caricarlo per il viaggio. Prendemmo biancheria da letto, utensili da cucina e poche altre cose essenziali. Il mattino seguente, ogni armeno di Azizia, che non fosse stato esonerato dal provvedimento, doveva presentarsi nella piazza centrale. Fu la cena più triste a cui avessi mai partecipato. Infine, dopo averci riuniti tutti, la nonna parlò. «Per quanto possano disperderci, esordì, noi siamo una famiglia. Se uno di noi dovesse morire, qualcosa morirà in ognuno di noi. Ma se uno solo vivrà, vivrà una parte di ognuno di noi. Non si può costruire il bene sul male. L'operato dei turchi è una follia e dobbiamo pregare per non impazzire anche noi come risultato, come vittime di questa aberrazione che si è impadronita di loro. Noi non dobbiamo perdere la speranza e la fiducia nella vita né la nostra fede in Dio. C'è fortuna che porta disgrazia e disgrazia che porta fortuna. Aspettiamo e vediamo quali porte di Dio si apriranno per noi». Si interruppe e ci guardò a uno prima di continuare. «Questa casa e i nostri beni sono al sicuro per ora. E in questo siamo più fortunati di molti altri. La strada che conduce lontano può riportare indietro. Nei momenti più bui, questo pensiero ci sarà di conforto. Se fuggirete, vi raggiungeremo. Altrimenti, se riuscirete a ritornare, saremo qui ad aspettarvi». Non capii granché del suo discorso, ma le ultime parole mi commossero profondamente. Cominciavo ad accettare il fatto che la nonna non sarebbe venuta con noi ed ero decisa a ritornare. Credo che quella notte nessuno abbia dormito. Al mattino, il nonno e i miei zii Apel e Haig misero i loro averi sul carro, dopodiché cominciarono i lunghi addii. Nessuno riusciva a trattenere le lacrime. Non avevo mai visto la nonna piangere. Tremava e gemeva come alcuni degli altri, mentre lacrime le scorrevano sulle guance rugose. Non riuscii a dirle niente, finché di colpo anch'io scoppiai in singhiozzi. Corsi da lei e l'abbracciai stretta. «Mia cara bambina», continuava a ripetere, «Dio ti restituirà a me, ne sono sicura». Non ricordo gli altri saluti. Quando mi voltai a guardare, quelli che restavano erano tutti in fila con le braccia in alto. La nonna, zia Lusaper, Rpsime, zia Rusiag con Garabed in braccio e Mariam seminascosta dietro di lei. Non avevo mai provato un simile amore per la mia famiglia prima d'allora. In quel momento qualcosa cambiò dentro di me. Mi resi conto che dovevo prendermi cura di mia sorella e dei miei fratelli, come mai avevo fatto prima. Cominciai a capire il concetto di famiglia. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dal libro di David Kerdian, Lontano da casa, Guerini e Associati Editore, 192 pagine, 16 euro.